Giornale radio del Friuli Venezia Giulia. Il presidente del Senato Ignazio La Russa stamattina al Sacrario di Re di Puglia. Si svolgerà qui una delle cerimonie principali per la giornata dell'Unità Nazionale delle Forze Armate. Manifestazioni solenni si svolgeranno in tutti i capoluoghi, nelle prefetture le consegne dei riconoscimenti al merito della Repubblica. Fra luci spente e incremento del fotovoltaico, anche le amministrazioni pubbliche cercano di far fronte al caro energia. Diversi comuni hanno deciso lo spegnimento dell'illuminazione stradale. Lanci ha chiesto al governo 1 miliardo per evitare il default. Pattuglie miste italo-slovene anche sui treni che collegano Trieste e Lubiana. È emerso dalla riunione di ieri del Comitato Ordine Pubblico e Sicurezza svoltosi presso la prefettura del capoluogo regionale, chiesto un incontro col neo ministro dell'Interno Piantedosi. Dopo la sala Tripkovic sarà la volta dell'ex piscina terapeutica. A Trieste il comune ha avviato l'abbattimento della sala teatrale ed ex stazione delle Corriere. Vicina, assicura il sindaco di piazza, la riapertura della galleria di Piazza Foraggi, collaudi in corso per il tram di Opicina. Mercato immobiliare, il 2022 si chiuderà con il segno positivo per le compravendite. A fine anno saranno il 5% in più dell'anno scorso. Il mattone si conferma bene rifugio, forte l'exploit delle seconde case. Per lo sport, anticipo di Serie A per l'Udinese, che stasera al Friuli incontra il Lecce, fischio d'inizio alle 20:45. Otello apre la stagione lirica del Verdi di Trieste, orchestra affidata alla bacchetta del maestro Daniel Oren. L'attualità di Pasolini in diverse iniziative, un convegno sulla lezione del grande intellettuale si apre stamattina a Casarsa e sempre qui stasera al Teatro Pasolini il trombettista Mauro Maur riarrangerà le colonne sonore che Morricone aveva scritto per i suoi film. Al Bobbio di Trieste invece va in scena PPP, un segreto italiano di Carlo Lucarelli. Cividala invece rende omaggio ad Adelaide Ristori. La vita della grande attrice diventa uno spettacolo che stasera debutta al teatro a lei dedicato. È venerdì 4 novembre 2022, sono le 7:20:30. Buongiorno dalla testata giornalistica regionale, ai microfoni con voi stamattina Eva Ciuc e Antonio Cagliazza. In apertura la situazione meteorologica, dalla mezzanotte è scattata l'allerta della protezione civile, allerta arancione per l'area montana e il pordenonese, e allerta che perdurerà fino alla mezzanotte. E infatti piogge abbondanti sono già in corso in diverse località della regione e diversi sono anche gli allagamenti. Una decina gli interventi dei vigili del fuoco intervenuti nella zona di Cervignano per allagamenti e alberi caduti sul manto stradale. Allagamenti di strade scantinati si registrano anche a Pasian di Prato, Gonars, San Giorgio di Nogaro, Bagnari Arsa e Udine, con una concentrazione maggiore di chiamate da San Giorgio di Nogaro a Grado. È stato raggiunto il primo livello di attenzione per l'acqua alta. E vediamo la situazione al momento. Il cielo da nuvoloso a coperto, ecco le temperature registrate alle 6, a Trieste 17 gradi, il mare è poco mosso e ha una temperatura di 20 gradi e 5, a Udine e a Gorizia 15 gradi, a Pordenone 14 e 5, a Tolmezzo 13, a Forni di Sopra e a Tarvisio 9 gradi, Piancavallo 8 e mezzo, Sappada 7 e mezzo, Monte Lussari e Monte Zoncolan 4, a Lignano 19 e 5, a Grado 17 e 5, la temperatura del mare è di 19 gradi. Le previsioni: oggi al mattino cielo coperto con piogge da abbondanti ad intense, probabilmente anche molto intense sulla fascia alpina, prealpina e sulla pedemontana, probabili temporali. Sulle Alpi nevicate oltre 1500-1800 metri nel pomeriggio, soffierà vento sostenuto da sud o sud-ovest, anche forte in quota o sulla costa, con probabili mareggiate, sarà possibile anche acqua alta. Dal tardo pomeriggio miglioramento su tutte le zone con schiarite. È la giornata dell'Unità d'Italia e la festa delle Forze Armate. Molte le cerimonie in programma in Friuli Venezia Giulia. La principale si svolgerà al Sacrario Militare di Re di Puglia alle 11 alla presenza del Presidente del Senato Ignazio La Russa in rappresentanza del Capo dello Stato, e poi sarà presente anche il Ministro per i Rapporti con il Parlamento Luca Ciriani in rappresentanza del Governo. In Piazza Unità a Trieste la ricorrenza verrà celebrata con le tradizionali cerimonie cerimonie di alza e ammaina bandiera solenne che si terranno rispettivamente alle 10 e alle 17 alla presenza delle autorità civili, militari e religiose. Nell'occasione verrà aperta al pubblico dalle 9 alle 12 la caserma Guido Brunner del 2° Reggimento Piemonte Cavalleria, sita a Villa Opicina. A Gorizia, in piazza della Vittoria, si svolgerà la cerimonia dell'alza e dell'ammaina bandiera alle 9 e alle 17. Alle 17.30 si svolgerà nel Palazzo del Governo la cerimonia di consegna delle onorificenze al merito della Repubblica. Uno dei titoli di commendatore è per Bruno Pizzul, ex telecronista Rai. Presso la sala conferenze della prefettura di Udine alle 12 saranno consegnate le onorificenze dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana, concessa tra gli altri al manager sanitario Amato De Monte. Inoltre, dalle 9 alle 13 alla caserma di Pramper, sede del comando Brigata Alpina Giulia, sarà possibile visitare le sale Cimeli. A Pordenone invece la cerimonia commemorativa avrà inizio alle 9.45 in piazzale L. Il costo dell'energia sta inducendo tutti a ridurre i consumi, lo stanno facendo le famiglie e lo fanno anche gli enti pubblici. Il comune di Butrio, ad esempio, ha deciso lo spegnimento dalla mezzanotte dell'illuminazione pubblica, ma non è l'unico ad essersi incamminato su questa strada. A fronte di bollette triplicate, Butrio taglia per 3 mesi l'illuminazione pubblica notturna nelle strade secondarie. La situazione è grave, indicano diversi municipi del territorio. Entro fine anno va chiuso il bilancio. Bisogna indicare la previsione di spesa per le bollette, parametrata al 2022, farebbe saltare tutti i conti già dal 2023. L'energia va a incidere sulla spesa corrente, quella per le attività ordinarie. Eliano Bassi, sindaco di Butrio. Dobbiamo continuare a fare quello che si è sempre fatto, quindi fare manutenzione prima di tutto. Fare manutenzione significa fare asfaltature, significa fare la segnaletica, significa fare degli interventi sulle scuole. I 10 milioni stanziati dalla Regione non basteranno da soli a coprire le spese extra. L'ANCI, Associazione Nazionale dei Comuni Italiani, chiede al Governo di trovare 1 miliardo di euro per evitare il default dei comuni o in alternativa estendere la possibilità di erodere, anche per l'anno prossimo, l'avanzo di amministrazione, ovvero i risparmi. A Premariacco, in attesa di sostituire i punti luce ormai vetusti, nell'emergenza si è scelto di spegnerli tutti da mezzanotte in poi. Io vado a dormire presto, non se ne accorge neanche. Non mi accorgo. Secondo me può andare anche bene. Abbiamo pagato le tasse prima di iniziare a costruire la casa e adesso ci spengono le luci. Stiamo nel buio, non va bene. La trovo una cosa giusta, una fatica che dobbiamo fare. Magari si potrebbe decidere per delle illuminazioni con lampioni alternati, ecco. Succede pochi chilometri più in là, a Pradamano. A partire dal crepuscolo, spegnimento manuale di 2 lampioni ogni 3, ad eccezione degli incroci e della statale. Hanno un punto là, poi ci dovrebbe un punto qui, lì non c'è, là non c'è, ce n'è uno là della chiesa, il resto è tutto buio. Lì da me è buio la sera, devo lasciare acceso io. Sicuramente eravamo abituati bene prima, no? Con l'illuminazione. Butrio, Lillo Montalto Monella, TGR, Friuli Venezia Giulia. Quasi 30 milioni di euro per costruire una nave gasiera e il finanziamento ottenuto dalla società triestina Fratelli Cosoli ci è derogato da un gruppo di istituti bancari come Credit Agricole Italia e Unicredit da Cassa Depositi e Prestiti. Il finanziamento, che coprirà il 70% del valore complessivo dell'intera operazione, equivalente a circa 44 milioni di dollari, verrà utilizzato da Fratelli Cosoli per la realizzazione di un'unità che, con le sue 5.300 tonnellate lorde, sarà in grado di trasportare oltre 8.200 metri cubi di gas naturale liquido e 500 metri cubi di MGO, il Marine Gas Oil, nonché di un impianto di gestione del carico che sarà progettato e realizzato da Wärtsilä Gas System. La Fratelli Cosoli beneficerà anche di una sovvenzione dell'Unione Europea che mira a sostenere lo sviluppo di infrastrutture di distribuzione di carburanti alternativi. Le pattuglie miste italo-slovene saranno estese ai treni, lo ha riferito il prefetto di Trieste Annunziato Vardè ieri dopo la riunione del Comitato per l'Ordine e la Sicurezza sull'emergenza migranti. Un fenomeno nuovo è l'arrivo di stranieri via treno dalla Slovenia, come è avvenuto nei giorni scorsi con un gruppo di 20 persone. Le pattuglie miste viste su rotaia sono una novità a Trieste, ma si sono già viste in passato fra Italia ed Austria nel Tarvisiano. Ottobre è stato un mese record per Trieste, con 2.000 ingressi di stranieri, molti dei quali solo in transito. Con questi numeri mai visti prima, non si può garantire un alloggio per molti giorni ai richiedenti asilo che decidono di fermarsi. Bardet ha chiesto al Ministero dell'Interno nuovi trasferimenti verso altre zone d'Italia, operazione rallentata dalla quasi saturazione del sistema di accoglienza nazionale. I sindacati di polizia lamentano un organico insufficiente a garantire flussi di tale portata. Da parte di prefettura, regione e comune è stato proposto un incontro al neo ministro Matteo Piantedosi. È stato ritrovato nella notte nei campi di Bagnaria Arsa l'84enne di Codroipo, che era scomparso da ieri pomeriggio. L'anziano è stato ritrovato grazie alla segnalazione di un cittadino. È in buone condizioni ed è stato comunque affidato al personale sanitario inviato sul posto dalla Sores per tutti gli accertamenti del caso. I vigili del fuoco e la protezione civile si sono messi al lavoro già ieri sera nella zona della frazione di Ontagnano di Gonars, dove era stata trovata la sua automobile. Lavori pubblici a Trieste, ruspa in azione. Ieri alla sala Tripkovic, la grande struttura non lontana dalla stazione, è ormai dismessa da tempo. Prossimo abbattimento, assicura il sindaco di piazza, la piscina terapeutica di cui era già crollato il tetto. È iniziata a sorpresa con qualche giorno d'anticipo rispetto all'atteso la demolizione della sala Tripkovic di Trieste, ma per vederla completamente a terra bisognerà attendere un po'. La ruspa ha operato per meno di un'ora per effettuare dei sondaggi. I lavori dovrebbero riprendere lunedì prossimo e concludersi entro la fine di gennaio. L'abbattimento rientra nel più ampio piano di rinnovamento della città nell'area del Porto Vecchio, dove sono già in corso i lavori di urbanizzazione. Una volta conclusi, nel 2023, sarà ripristinato l'accesso dal largo Città di Santos, dove si trova la stessa Tripkovic. Costruita nel 1936 come stazione per gli autobus, è stata trasformata in teatro in occasione della chiusura temporanea del Verdi negli anni 90. Da diverso tempo non si svolgevano più eventi perché non era più agibile. A suo posto sorgerà una bellissima piazza, come l'ha definita un soddisfatto Roberto Di Piazza, il sindaco che da anni puntava alla demolizione della struttura. Il prossimo obiettivo è abbattere la piscina terapeutica, ha aggiunto Di Piazza, riferendosi all'edificio crollato nell'estate del 2019, quando, per fortuna, era vuoto. Quanto alle altre opere, il cui termine è molto atteso dai triestini, la galleria di Piazza Foraggi la stiamo dipingendo, siamo verso la fine, mentre il tram è nella fase di collaudo, ha detto Di Piazza, che però non ha dato una scadenza precisa per nessuno dei due cantieri. Antonio Di Bertolomeo, TGR Friuli Venezia Giulia. La deputata del PD Paola De Micheli, al momento unica candidata alla segreteria Dem, sarà oggi in regione, prima a Udine alle 12 alla libreria Friuli e poi a Trieste alle 18 alla libreria Minerva, in occasione della presentazione de Il governo delle donne, il volume di Fabiana Martini. A per tema pace, Balcani, migrazioni, l'incontro organizzato dal Patto per l'Autonomia in programma alle 18 nella Casa dello Studente a Spilimbergo. C'è la crisi, i titoli finanziari e le valute si caratterizzano per grande volatilità ed è questa la situazione in cui il mattone torna a fare da bene rifugio privilegiato e dunque, nonostante le enormi difficoltà di larghi strati della società, le compravendite di case aumentano con un exploit delle seconde abitazioni. Anche il 2022 si chiuderà col segno positivo per le compravendite immobiliari residenziali in regione. A fine anno saranno più di 18.000, aumentate del 5% rispetto al 2021. Stime della Federazione Italiana Agenti Immobiliari, il dato rilevato dal suo centro studi nazionale è in linea con quello italiano e conferma il mattone come primo bene rifugio anche in questi tempi di incremento rilevante del costo del denaro. Si evidenzia il forte exploit delle seconde case, oggi diventate multifunzionali, utilizzate per le vacanze, i fine settimana, il lavoro agile, didattica a distanza e anche per essere parzialmente affittate a turisti, osserva ancora la FIAIP. Quanto ai prezzi, non si registrano grossi rincari se non sul nuovo, dove oscillano tra il 5 e l'8%. Trieste, Lignano, Grado, il Tarvisiano e Sappada, le città dove la domanda di acquisto è più sostenuta e si rilevano gli aumenti maggiori al metro quadro. Il monitoraggio evidenzia anche il positivo andamento del mercato degli affitti. Ripartito dopo la fine delle restrizioni anti-Covid, sta assicurando una rendita lorda ai proprietari intorno al 4%. A Spilimbergo spingere la domanda anche i rialzi sui mutui che, anche a detta dell'Associazione dei consumatori, stanno orientando i potenziali acquirenti a optare per una locazione e a rinviare l'acquisto in attesa di tempi migliori. A farlo sarebbero soprattutto i giovani, che non riuscirebbero più a beneficiare del fondo di garanzia sui mutui prima casa, secondo quanto segnala Consumatori Attivi, che chiede nuove regole. Sempre sul fronte mutui, la Federazione Agenti Immobiliari non rileva grossi contraccolpi in regione sui già stipulati, dato che per il 90% sono a tasso fisso. A preoccupare, sottolinea sempre la FIAIP, sono i tempi di erogazione. A fronte di maggiori garanzie richieste dalle banche, sono già rallentati di circa un mese. Lara Boccalon, TGR Friuli Venezia Giulia. Quasi 8 milioni e mezzo per la protezione civile. È uno stanziamento regionale che consentirà l'acquisto di nuovi mezzi e il rafforzamento della rete comunale del volontariato. In arrivo per la protezione civile del Friuli Venezia Giulia nuovi veicoli, mezzi, divise e dispositivi di protezione individuale per le squadre comunali e le associazioni di volontariato. Il tutto grazie a due delibere di giunta che valgono in tutto oltre 8,4 milioni di euro. Tre linee di contribuzione. La prima va a finanziare la sostituzione dei mezzi che hanno più di 25 anni. La seconda riguarda invece la cessione di veicoli attualmente di proprietà della protezione civile regionale alle squadre comunali che ne hanno più bisogno in base al numero di volontari e al numero di mezzi già in dotazione. Si tratta di 18 veicoli tra autovetture e autocarri in fase di dismissione che saranno ricondizionati e assegnati ai comuni. La terza linea di contribuzione riguarda nuove dotazioni di veicoli e attrezzature speciali che al momento non sono nella disponibilità delle squadre comunali e che servono per gestire le specifiche emergenze di singoli territori. Per questo sono state favorite le aggregazioni tra singole municipalità, i veicoli speciali, cioè saranno affidati ai comuni capofila, cui fanno riferimento più squadre di volontari. I veicoli speciali saranno concessi in comodato ai comuni con il vincolo di metterli a disposizione della protezione civile regionale in caso di emergenza con un sufficiente numero di volontari e con il vincolo di eseguire periodicamente delle esercitazioni che consentano la conoscenza del mezzo e il buon funzionamento dello stesso. Udine, Giovanni Tormina, TGR Friuli Venezia. Siamo allo sport, anticipo di campionato di Serie A. Stasera alle 20.45 l'Udinese, che non vince da 4 partite, scende in campo per la prima partita della 13ª giornata. Alla Dacia Arena arriva un Lecce in difficoltà. Riparte la stagione d'opera e balletto del Teatro Lirico Giuseppe Verdi di Trieste col direttore d'orchestra Daniel Oren. È Otello il primo titolo, per l'occasione un cast internazionale d'eccezione in un perfetto equilibrio fra solide star e sicuri giovani talenti, guidato dal maestro Oren sul podio, in staffetta con Francesco Ivan Ciampa e con la regia di Giulio Ciabatti, già autore dell'ultimo allestimento 12 anni fa. Il sipario alle 20.30, repliche fino a martedì 15 novembre. L'attualità di Pasolini in diverse iniziative, dedicato all'eredità e alla lezione dello scrittore corsaro, il convegno internazionale di studi Pasolini 100, ieri, oggi, domani. In programma oggi e domani a Casarsa della Delizia, nella sala consiliare di Palazzo Burovic de Smajevic alle 9.30, organizzato dal Centro Studi Pasolini. In vista della conclusione delle celebrazioni dell'anno pasoliniano, organizzate nell'ambito del Comitato Nazionale per il Centenario, il convegno sarà anche l'occasione per tracciare un bilancio di quanto fatto. PPP, un segreto italiano, il libro nel quale Carlo Lucarelli ripercorre i lati oscuri del delitto di Pierpaolo Pasolini da un punto di vista assolutamente personale. Dal libro lo scrittore e giallista ha tratto il testo per lo spettacolo che intreccia parole e musica e che arriva in scena al teatro La Contrada con evento speciale fuori abbonamento al teatro Orazio Bobbio alle 20.30. Il comunale di Monfalcone omaggia Pasolini nel centenario della nascita con lo spettacolo PPP Big Band, dal porcile all'orgia di Pierpaolo Pasolini, che vede sul palco le voci narranti di Anna Zago e Paolo Rozzi, accompagnate dal brio della Lydian Sound Orchestra. Sipario alle 20.45. Reading letterario a cura del professor Pietro Mastromonaco. Pasolini, un'inquietante dirompente presenza, con Angelo Floramo e Paola Ferraro. L'evento è organizzato dalla Biblioteca di Pasian di Prato nell'Auditorium Venier di Pasian di Prato alle 18. L'introduzione di Angelo Floramo, la lettura di poesie in friulano sarà a cura di Paola Ferraro. Tra musica e parole approda al Teatro Pasolini di Casarsa della Delizia alle 20:45 Morricone, la musica per Pasolini, un omaggio del celebre trombettista di origine triestina Mauro Maur a Pierpaolo Pasolini nell'anno del centenario e al grande compositore, direttore d'orchestra e arrangiatore Ennio Morricone. Ma sentiamo Mauro Maur, che è stato solista in più di 100 colonne sonore e il collaboratore personale di Ennio Morricone per quasi 20 anni. Mi lascia i ricordi che lascia a un ragazzo di 27 anni che era arrivato a Roma da Parigi e che per una ragione che non so fu chiamato in una delle più importanti sale di registrazione d'Italia, la Forum Studios, e mi ritrovai davanti a una partitura, un assolo per tromba con un maestro molto severo al quale, dopo che io registrai la prima, sentì nelle cuffie: buona la prima. Io chiesi: sì, posso farne una seconda? E questo maestro, che era appunto Ennio Morricone, disse: se questo ragazzo vuole farne un'altra, fagliela fare. Cosa le lascia questa esperienza? Cosa ha imparato dal maestro Morricone? La serietà, la severità della musica. Ho conosciuto un uomo geniale, vero, puro, puro all'inverosimile, di una gentilezza. Suonava la tromba, lui era diplomato in tromba, il papà anche, dunque forse questo ha dato così modo che nascesse questa amicizia. In programma questa sera le più celebri musiche che Morricone ha composto e curato per i film di Pasolini. Questo teatro musicale che noi faremo con musicisti romani e naturalmente anche di qua è preparato in una maniera molto molto speciale. Sarà qualcosa di diverso, credo, un interesse, perché sono dei testi straordinari e delle musiche altrettanto. Raccolta del Museo Revoltella da Canova al XXI secolo, una grande esposizione per celebrare i 150 anni del museo. La spettacolare Dea Roma di Attilio Selva al pian terreno, assieme al cavallo rampante di Marcello Mascherini, e poi il gruppo allegorico del taglio dell'Istmo di Suez di Pietro Magni, rappresentazione dell'ambizioso progetto del quale il barone Pasquale Revoltella fu uno dei primi azionisti, e il bozzetto che Arturo Martini presentò al concorso del 1934 per il monumento di Emanuele Filiberto Duca d'Aosta. Il Museo Revoltella celebra i 150 anni con una mostra che valorizza la sua straordinaria collezione scultorea e la figura del fondatore, che volle lasciare alla città il palazzo per farne la più antica galleria pubblica in Italia destinata all'arte moderna. A curarla la conservatrice del museo, Susanna Gregorat. Questa mostra si costruisce col patrimonio, che è un patrimonio sterminato, ricchissimo, che ha solo bisogno di essere di volta in volta valorizzato, cogliendo anche questa grande opportunità appunto dei 150 anni della fondazione del Museo Revoltella. In mostra da oggi e fino al 25 aprile prossimo, una sessantina di opere che raccontano gli sviluppi artistici del territorio italiano ed europeo, dal primo 800 al 21 secolo, alcune delle quali inedite, altre sottoposte per l'occasione a importanti interventi di restauro. Il percorso si snoda attraverso i 6 piani del museo e prevede un riallestimento di alcune sezioni dell'esposizione permanente. Si va da Pietro Magni e gli scultori di palazzo al classicismo del primo 800 con le opere di Canova, per arrivare alla sezione dedicata a Marcello Mascherini, che ebbe anche un ruolo decisivo nell'acquisizione delle opere, e al confronto fra l'interpretazione delle figure femminili di artisti locali come Franco Asco e quella di alcuni interpreti del verismo di fine 800 fino ad altri capolavori del Novecento italiano. Lara Zani, TGR Friuli Venezia Giulia. Per la 18ª edizione del Volo del Jazz approda al Teatro Zancanaro di Sacile alle 21 il leggendario trombettista Randy Breaker. The King of Jazz, trombettista e compositore Randy Breaker, con la band musicale Funky Fusion Breaker Brothers, ha calcato i più prestigiosi palchi del mondo, suonando con alcuni dei più grandi musicisti del Novecento, tra cui Frank Zappa e Pastorius. Ha vinto 5 Grammy Awards, mescolando spesso con il jazz le influenze musicali di diverso tipo. È stato definito un musicista eclettico a suo agio tra hard bop, fusion e funk. Sul palco del Teatro Zancanaro suonerà con l'orchestra dell'Accademia Naonis, diretta da Walter Sivilotti, alla quale si aggiunge il pianista friulano Glauco Venier. Al Festival della Fantascienza in corso a Trieste continuano gli incontri di Mondo Futuro, che domenica vedranno protagonista Franco Malerba, il primo astronauta italiano che partecipò a una missione spaziale. Tra pandemia, spettro nucleare, cambiamenti climatici e avvento del metaverso, la realtà sembra aver preso a rincorrere la fantasia, un cortocircuito tra scienza e fantascienza che molti scrittori e registi del genere avevano saputo immaginare già parecchi decenni fa. Simona Regina, curatrice degli incontri Mondo Futuro. Sono due universi che inevitabilmente si ispirano a vicenda, molto spesso la fantascienza ha ispirato il lavoro di ricercatori e ricercatrici, ci ha proiettato in universi, in mondi ipertecnologici che poi col passare degli anni sono diventati realtà. Alcuni cambiamenti sono ormai inesorabili, come società dobbiamo capire cosa fare per mitigarne gli effetti e soprattutto per adattarci. Un mondo, quello in cui viviamo, talmente nuovo che costringe anche la fantascienza a esplorare nuovi orizzonti. Simonetta Olivo, del collettivo italiano Fantascienza e Fanta Trieste. La cosa che in questo momento sta succedendo nel mondo della narrativa e dell'immaginario fantascientifico è che accanto a quello che è la distopia si sta affiancando qualcosa di diverso che vuole avere un impatto positivo sulla società. È una corrente che si chiama Solar Punk e che sostanzialmente fa della narrativa uno strumento per non abituarsi all'idea che le cose vadano male. E per una volta sembra quasi che non sia la fantasia a irrompere nella realtà, ma la realtà a entrare e condizionare la fantascienza dei libri. Fabio Aloisio, autore di racconti di science fiction. La realtà è diventata fantascienza, oppure la fantascienza è diventata realtà, si può vedere anche in questo modo. E quindi come cambia con noi? Cioè, anche noi dovremmo pensare in una maniera diversa banalmente, e la mascherina sarà una cosa che ormai andrà messa sempre nei racconti, perché è stata una realtà quotidiana per noi, per tutti. Quindi il nostro è un racconto che sarà a lieto fine? Sì, speriamo che sia a breve lieto fine. Trieste, Lorenzo Gerlinzoni, TGR, Friuli Venezia Giulia. Nel mezzo dell'inferno è un'esperienza immersiva che farà discendere singoli spettatori dotati di visore VR nei cerchi infernali e incontrare alcuni dei personaggi tanteschi. Un esempio di come una tecnologia innovativa come la realtà virtuale immersiva venga impiegata a supporto e in interazione con le arti performative. Si tratta di una coproduzione CSS, Teatro Stabile di Innovazione, e LAC, Lugano Arte e Cultura, al Teatro San Giorgio a Udine dalle 18 alle 22. La rassegna stampa, due grandi foto sulla prima pagina del Piccolo di Trieste. In alto un'immagine del Summit europeo di Berlino col titolo €1 miliardo per i Balcani. Sotto la pala meccanica che ieri mattina ha cominciato la demolizione della sala Trepković, col sindaco di piazza che dice: hanno tentato di fermarmi in tutti i modi. L'esordio della Premier Giorgia Meloni in Europa, i suoi incontri a Bruxelles, l'atteggiamento italiano nei confronti dei migranti, il processo di allargamento ai Balcani nelle prime quattro pagine del giornale. E poi nella pagina della Regione si dà conto degli incontri a Roma del presidente del Friuli Venezia Giulia Fedriga, prima nel suo ruolo di presidente della Conferenza delle Regioni col ministro delle Autonomie Calderoli e poi col ministro Urso, titolare del Ministero delle Imprese, l'ex Mise, con il quale ha affrontato anche il dossier Varsila. In due pagine il Piccolo poi riporta il tragico schianto in autostrada dell'altra sera che è costato la vita a due uomini. Con due articoli si raccontano le loro vite. L'apertura delle pagine di Trieste: partenza anticipata per la demolizione della sala Trepković, ditta in azione già ieri mattina, e da lunedì l'abbattimento entra nel vivo. Nel paginone culturale una lunga intervista al maestro Daniel Oren, che stasera dirigerà l'Otello al Verdi di Trieste. Sanità, rientrano 90 Novax, si tratta per la maggior parte di medici che saranno reintegrati nei rispettivi reparti, apre così il Messaggero Veneto nell'edizione del Friuli. Nella fotonotizia in taglio alto invece la cronaca con lo scontro nella nebbia sulla A4, morti due amici di 29-34 anni. C'è anche una piccola fotonotizia a centropagina con gli autori del furto dei cinque tricolori ripresi mentre strappano le bandiere. La cronaca nel colonnino a destra, sgominata la banda specializzata nel furto di rame ed è stata inaugurata l'area verde dedicata a Robert Miles. La pagina della cultura dedica, ha scelto la scrittrice francese Maëlie de Kernaghal per l'edizione 2023, annunciata l'ospite della rassegna in programma in marzo. 8 giorni per approfondire i suoi romanzi e il suo pensiero. L'inserto del Gazzettino dedicato al Friuli, in primo piano ancora la tragedia in A4, muoiono 2 amici. In taglio alto invece il titolo sulle poche luminarie, sarà un Natale in penombra. Nella fotonotizia centropagina, nuovo ricorso per la statua ad adorare contro il diniego, della soprintendenza, e anche il Gazzettino riporta l'operazione furti di rame e automobili, 5 arresti. Vediamo l'edizione di Gorizia e Monfalcone del Piccolo. In risalto, in prima pagina, lo schianto dell'altra sera in autostrada all'altezza di Villesse. Muoiono 2 giovani, un uomo di 29 anni e l'amico di 34. Incidente causato forse dalla nebbia. E poi le loro storie. Quel compleanno mai festeggiato da Stefano, il lutto di Ronchi, e Dario, il corriere col sorriso a cui tutti a grado volevano bene. All'interno l'apertura delle pagine di Gorizia, bollette stratosferiche, il comune punterà sui pannelli fotovoltaici. L'assessore Cagliari dice già 10 strutture comunali sono dotate di impianti. E poi le prospettive di Go 2025, il progetto della capitale europea della cultura, in un incontro al Verdi alle 18 con sindaci, GECT, regione e cittadini. Le pagine del Monfalconese in apertura, in futuro corsi di arredo e di style dopo quello sui maestri d'ascia che ha riscosso un grande successo. E la sindaca Cisinta ha scritto a Fedriga per accedere al Fondo Sociale Europeo. La nautica è il nostro avvenire, dice. Il Messaggero di Pordenone apre con un titolo dedicato al salvataggio della Cimolai. 2 grandi gruppi pronti a intervenire all'operazione sarebbero interessati WeBuild e i francesi di Vinci. Entrambe le realtà potrebbero entrare nel capitale. La fotonotizia anche qui dedicata alla tragedia sulla A4, poi i titoli di cronaca, i progetti per l'area di 14 ettari dell'ex caserma mittica, tema approfondito anche nel capocronaca, nelle pagine interne. Poi ancora i titoletti di cronaca in prima pagina, superbonus e lavori mai eseguiti, confermati i sequestri. E poi quest'anno dedica a per protagonista Maëlie de Kernaghal. La pagina dell'economia, Sparcasse, 3 miliardi a famiglie e imprese assieme a Civibank, e l'integrazione va convention oggi in fiera a Pordenone con il responsabile della capogruppo Nicola Calabrò e Mario Crosta di Cividale. Il Gazzettino di Pordenone apre anche il Gazzettino, insomma, con la Cimolai, 2 colossi pronti ad entrare, questo è il titolo. E poi in taglio alto la tragedia in autostrada, la fotonotizia sulle luminarie, un Natale in penombra, e in basso i tifosi di Pordenone nero-verde alla Dacia Arena per tifare Lecce. E ancora sport, ciclocross, 8 friulani in corsa agli europei da oggi a domenica. Prima edizione del mercatino regionale francese con i suoi profumi, sapori e i colori d'Oltralpe si terrà da oggi al 6 novembre a Udine in piazza Matteotti e in via Mercatovecchio. Tante le prelibatezze enogastronomiche presenti, dai formaggi ai dolci, tutte rigorosamente di qualità e di tradizione francese. In occasione del bicentenario della nascita di Adelaide Ristori, il comune di Cividale dedica alla grande attrice e patriota lo spettacolo dal titolo Adelaide, commissionato ad Hangar Teatri di Trieste. Sul palco del Ristori di Cividale alle 21, Tullia Alborghetti e Valentina Milan e Fulvio Falzarano, che ha firmato anche la regia e che ci spiega chi era Adelaide Ristori. Oltre a essere un genio della recitazione tragica e drammatica e volendo anche comica, è stata un'incredibile impresaria teatrale, perché lei era nata il 29 di gennaio del 1822 ed è morta a Roma nel 1906, e all'epoca è stata in tournée in Nuova Zelanda, a Cuba, in America, in Olanda, in tutta quasi l'Europa, e ha dovuto addirittura aspettare una volta lì in America che terminassero le guerre tra Toro Seduto e le Giubbe Blu. Non solo, ma è stata un simbolo del Risorgimento, perché addirittura Giuseppe Mazzini pensava di utilizzare la sua notorietà per la causa nazionale, Camillo Cavour le affida un'importante missione in occasione della sua prima tournée in Russia e incontrare il ministro degli esteri russo Gorbaciov. Insomma, è stata tutto. Come sarà lo spettacolo, invece? Una forma di teatro povero che, in qualche modo, con lo studio di questo personaggio, riesce a capire le difficoltà dell'epoca e, in qualche modo, confrontarsi con le comodità di oggi. Per il Wunderkammer Festival Algoritmi Musicali 2022, in collaborazione con l'ICTEP ed Elettra Sincrotrone, si terranno oggi all'ICTEP due conferenze alle 9.30 e alle 11 con scienziati quali Domenica Boetti della Sissa e Gabriele Riccardi dell'Università di Torino e Diego Dreossi di Elettra Sincrotrone. Alle 18.30 poi al Conservatorio Tartini di Trieste si continuerà a parlare di flauti dolci replicati in 3D in maniera più divulgativa in un incontro intitolato L'arte della forma. Il Joyce Museum del Comune di Trieste partecipa a Ulysses European Odyssey, un progetto cofinanziato dall'Unione Europea che, a partire dal romanzo Ulisse di James Joyce, di cui nel 2022 si festeggia il centenario, mira a costruire un nuovo manifesto dell'arte formato da una serie di 309 domande formulate nel corso degli incontri organizzati da 18 città europee in rappresentanza dei 18 capitoli ed episodi del romanzo. Tappa importante nella vita di Joyce a Trieste, dove si formuleranno 15 domande sulla storia che dovranno pervenire all'incontro conclusivo a Dublino nel 2024 per entrare a far parte dunque del manifesto all'auditorium del Museo Revoltella 17. E ora sono le 7:54 minuti e 30 secondi. L'assistenza tecnica è stata curata da Paolo Cassano e da Carlo Morello. Ha collaborato in redazione Laura Sarasini. Per il momento ci fermiamo. Prossimi appuntamenti con la nostra informazione pochi minuti dopo le 11 col Flash e poi l'edizione delle 12:30. Grazie della cortese attenzione da Eva Ciuc e da Antonio Cajazza. Buona giornata e a risentirci. Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.